Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Hey, lighten up, jerk! Mighty strong words, runt! You man enough to back him up with more than just a pie plate? Look, just leave my friends alone. Oh, what's wrong, dude? You yellow? That's what I thought. Yellow belly. Nobody calls me yellow. Let's finish it right now. Not now, Buford. Marshall's got our guns. Like I said, we'll finish this tomorrow. Tomorrow we're robbing the Pine City stage. What about Monday? We doing anything Monday? No, Monday be fine. You can kill him on Monday. I'll be back this way on Monday. We'll settle this then. Right there, out in the street, in front of the Palace Saloon. Yeah, right. When? High noon? Noon. I do my killing before breakfast. 7 o'clock. 8 o'clock. I do my killing after breakfast. For health and strength and daily food, we give thee thanks, our daily food. For health and strength and daily food, health and strength and daily food, we give thee thanks, our daily food. As bread breaks, as bridges bust and quake, uprooted and waiting, this blind side stroll casually by. Underneath the steps left behind will be leading. And at first glance, only form did he see, weathered over by time, as lines side by side, placing shame. strings, all the strings, the strongest of strings at the knees, together at the knees were the strings, all the strings, they were needed and seen, they were seen, oh, together at the knees were the strings. Backwards came. È la seconda parte di Eclettica, quella che state ascoltando, in compagnia di Giulio Caperdoni, che risponde all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, indirizzo da utilizzare nel caso vogliate scrivermi direttamente oppure vogliate iscrivervi alla lista nera di Eclettica, ovvero sia alla mailing list tramite la quale ricevete automaticamente, settimana dopo settimana, la playlist della trasmissione, ovvero sia l'elenco dei brani, degli sprazzi cinematografici e degli incipit letterari. In questa playlist, per esempio, troverete da sabato, quando ve la invierò, ad inizio della seconda parte di quest'oggi, il nome dei londinesi Time Space Repeat, ascoltati con The End of the World, seguiti poi dai Beat Beat Whisper, ovvero sia i due fratelli Ayla and David, che vengono da Oakland, Baia di San Francisco, che ci siamo ascoltati con And Suddenly the Part Was Shared. Ed ora è invece la volta di un duo di Bristol che ha fatto del rumore la sua religione. Il nome è Fuck Buttons. Loro si sono formati nel 2004, ma è solo nel mese di novembre che sono usciti con Street Horsing, quello che è il loro album di debutto, dal quale vado ad estrarre Sweet Love for Planet Earth. Thank you. Now break it up. What's all this about? You causing trouble here, Tannen? No trouble, Marshal. Just a little personal matter between me and Eastwood. This don't concern the law. Tonight, everything concerns the law. Now break it up. Any brawling, it's 15 days in the county jail. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 8, volume numero 3, indice, Electric President, Destroyer, Hot Chip, Sia, Cuzzo, Sambassador, Time Space Repeat, Bit Bit Whisper, Fuck Buttons, Gaster. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.